Neil. No, no, avanguardia. A volte il clima artico, se stavolta ti vedo sicuro vado nel panico. Ci gioco il mio cuore sul tavolo, sai che ci sto, anche se poi neanche mi parli. Già ho pensato quattro testi per ridisegnarti. Il motivo esce da solo, tra ste note la canzone mi commuovo con la AIDS mentre cala il sole. Poi ti vedo anche se rimani all'angolo, sai che ti vengo a salvare anche se sono il più scapolo. Torna indietro per favore, fammi un po' ballare adesso col mio suono che mi porta baby sta a guardare. Sei il dubbio più profondo che si è mai creato dentro la mia vita, la mia musica, l'anonimato. Lettere profonde al profumo di veleno, sarà un mio pensiero, credimi e vedi che sta al terzo cielo. Ti scopro arsi un polverone, metto in croce due parole, poi se non mi ascolti farò più un rumore. The sun goes down within myself, within my filth. The sun goes down, blend my blood, in my blood, yeah. The sun goes down, sun goes within, within myself, yeah. The sun goes down, the love and cold, yeah. Che luccica anche l'oro più profondo, dentro il fondo vedo galleggiare il mondo e tutto giù di un sorso. Ti chiamo cuore Terminator, sei di acciaio all'apparenza, poi mi bastano due barre per scaldarti in fretta. Rosso fuoco tra i diamanti e luce calda altrove. Leggi testi e mi domandi di che parli amore. Ti rispondo con un dito solo, tu via dalla stanza con tutta quest'ansia, aperto un altro foro. Break your neck, nella mia città natale schiaccio un altro rec. Mentre spengo il cellulare rido, poi perché non piangere fa bene a queste pagine. La mia Moleskine al margine tra queste ombre pallide. Ho distrutto ciò che avevo nelle mie mani, non me ne accorgevo e distruggevo anche le mie mani. Più di sette giorni che ormai sto lontano, non mi fa neanche più strano se ti vedo ti stringo la mano. The sun goes down within myself, within myself. The sun goes down, blend my blood, blend my blood. The sun goes down within myself, yeah. The sun goes down, blend my blood. Neo, sembra passato tanto tempo quando mi sentivo Jay senza nessun risentimento. Credi nel mio fallimento quando dormi, ma mica quando chiudi gli occhi, dico quando sogni. Segui petali di rosa a terra, credevi fosse la mia scia. Non è strada giusta, è tutta un'utopia. A volte strade separate sulla stessa carreggiata fanno intuire chi sorpassa sulla stessa strada. Sono il cacciatore senza l'arma in mano, quindi il cercatore d'oro tra i cristalli, sai, straordinario. Sei il fulmine perfetto sotto questo cielo, già mi mandi sotto effetto prima che ti vedo. Fumare sul mio letto, credi non apprezzo. Più di mille catene le tue mani spezzano. Scioglierò una di queste strofe come il ghiaccio al sole. Da lì tu capirai perché ho scritto sta canzone. The sun goes down within myself. The sun goes down, blend my blood. The sun goes down within myself. The sun goes down, the love and cold, yeah.